Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Gli oggetti devono fare compagnia. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, così scriveva uno dei maestri del design italiano, Achille Castiglioni, autore di veri e propri oggetti cult della storia del design. Proprio agli oggetti che accompagnano la nostra vita è dedicato il primo dei nostri approfondimenti. La Francia insegna per i supermercati piccolo e meglio. Ne parleremo nello spazio dedicato alla grande distribuzione. Consumi on air, invece, il tema del focus sui trend quando la voce fa tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità di questa settimana. Scivolone della mitica guida Michelin in Francia. La nuova classifica della Rossa ha dato una stella a un ristorante nel nord della Francia che ha chiuso i battenti lo scorso 30 dicembre. Finisce in procura la guerra dell'acqua. Mineracqua, la Federazione delle Industrie delle Acque Minerali, ha presentato un esposto sulle caraffe filtranti al procuratore Guariniello, che d'ufficio ha aperto un fascicolo. Le analisi commissionate da Mineracqua puntano il dito contro presunti rischi per la potabilità e la contaminazione batterica. Due ministeri ci hanno dato il via libera, replicano i produttori di caraffe. L'ecosostenibilità contagia anche gli occhiali. Montature di legno, soprattutto tech e ciliegio, con forme vintage e lavorazioni artigianali, ma anche occhiali di carta riciclata da giornali o fumetti giapponesi. Sono le tendenze emerse da Mido, il salone di riferimento del settore che si chiude oggi a Milano. Consumi ancora stagnanti. Nonostante il leggero miglioramento del clima di fiducia, secondo i dati di Confcommercio, la spesa delle famiglie ha segnato a gennaio una flessione dello 0,1%. Due famiglie su tre dichiarano di fare ancora rinunce. Rispetto al gennaio 2010, i consumi sono diminuiti di quasi il 2%. Lo slancio verso l'alto che sta rivoluzionando lo skyline di Milano potrebbe in futuro riguardare anche i cimiteri. È quanto prospetta il primo progetto Cimitero Grattacielo. Cielo Infinito è una torre di vetro che potrà ospitare fino a 60.000 salme all'interno di un edificio verticale di 34 piani. Parigi festeggia i 50 anni della Renault 4, l'auto francese più venduta al mondo, al terzo posto in assoluto dopo la Golf e il maggiolino della Volkswagen. Prodotta dal 1961 al 1993, ha venduto oltre 8 milioni di esemplari in 100 paesi. La borsa della spesa. È uno degli oggetti della mia adolescenza, della mia infanzia. Stava sulla scrivania di mio padre. Questo è un modellino della radio Fonola 547 dei fratelli Castiglioni, Achille Castiglioni. E, si diceva a forma di telefono, ma insomma, perché c'erano dei telefoni che erano un po' così, ed è insomma una delle chicche più preziose. Poi insomma l'apparecchio radio con il suo fascino, il suo mistero, insomma, quando di allora le onde medie, è una cosa straordinaria. E la bellezza è tuttora talmente straordinaria che questo modellino è stato rifatto dai cinesi, che clonano praticamente i nostri oggetti perfettamente, ed è anche funzionante con le batterie, naturalmente. Questa era una radio a valvola, e io insomma posso dire che probabilmente la mia passione per la radio, e quindi la mia carriera successivamente, che è partita dalla radio e poi è andata in televisione, cinema, musica, eccetera, può darsi che sia stata originaria proprio dalla bellezza di questo oggetto e dalla curiosità che mi stimolava questo oggetto quando io ero bambino. Beh, consentiteci la preferenza, Renzo Arbore non poteva fare scelta migliore, una radio, il suo oggetto icona. Insieme a molti altri nomi noti dello spettacolo, ma non solo, Arbore è tra i protagonisti dello speciale con cui Luxury 24, il sito del Sole 24 Ore dedicato al lifestyle, anticipa il Salone Internazionale del Mobile 2011, quella che è considerata ormai la più grande manifestazione del settore, che si terrà a Milano dal 12 al 17 aprile prossimi e festeggia quest'anno la sua 50ª edizione. 50 video interviste ad altrettanti personaggi che, uno diverso ogni giorno, raccontano il loro rapporto con il design partendo proprio dal loro oggetto icona. Paola Bottelli, responsabile di Luxury 24. Sembrava giusto celebrare adeguatamente il design made in Italy, che è una delle eccellenze industriali e creative dell'Italia, anche se in questo periodo l'industria ha vissuto un momento di difficoltà data la crisi economica internazionale, ma ora si spera proprio che si possano riprendere alla grande. Noi abbiamo scelto Renzo Arbore, quale altro oggetto scelto da chi possiamo citare? A me ha divertito parecchio lo chef Filippo Lamantia, che ha presentato come suo oggetto di design preferito la caffettiera Pina di Piero Lissoni e si è anche fatto un cafferino con il nostro collega, se lo sono bevuti così, celebrando, brindando ai 50 anni del Salone del Mobile. Ho scelto un oggetto straordinario che per il Sud è un oggetto fondamentale, insostituibile, a cui noi tutti ci riferiamo il mattino, quindi è un momento di comfort e di intimità. È appunto la caffettiera disegnata da Piero Lissoni per Alessi, che è denominata appunto Pina, quindi è come se fosse una tata di famiglia, una persona che sta a servizio da sempre, che appunto il mattino tu ti svegli e senti questo profumo di moca straordinario. Lui praticamente l'ha reinterpretata, l'ha ripulita alla perfezione, così come faccio io col mio cibo, evidentemente c'è questa unione straordinaria e ha creato un oggetto fantastico. Il design per me è sempre stato importantissimo come appunto il concetto di architettura, in quanto io ho fatto il liceo artistico e 5 anni di architettura e le atmosfere per me, soprattutto nel ristorante, sono importantissime. Il ristorante deve essere un insieme di classicismo, di tecnologia, di atmosfera, di colori, di profumi e di musica, perché no? È una beauty farm per me un ristorante. Come si preannuncia l'edizione di quest'anno? Saranno oltre 2000 espositori, che è un record assoluto innanzitutto. In secondo luogo, credo che proprio per celebrare questo evento la gran parte delle aziende, dei marchi più importanti, abbiano creato qualcosa di molto particolare. Cambiamo argomento, grandi superfici, addio, i supermercati rilanciano la formula del vicinato, il negozio sotto casa. Ce ne parla il direttore di Markup Luigi Rubinelli. In Francia come in Italia tutte le catene stanno riscoprendo il vicinato, il negozio sotto casa. Qualcuno è in ritardo, altri hanno in questo formato il loro cavallo di battaglia storico. Facciamo un esempio. Crai e Sigma sono di fatto insegne di vicinato da sempre con negozi piccoli inseriti nel quartiere, in immobili residenziali, e questo trend lo vivono con sufficienza. Sotto casa ci sono da sempre e non hanno molto da imparare dai concorrenti. Il vicinato è un concept commerciale più ostico per chi si è sempre occupato di grandi superfici come l'ipermercato, Carrefour ma anche Auchan. Prendiamo il caso di quest'ultimo. Hanno dovuto inventare in tutta fretta il prototipo di un negozio che può avere una superficie che varia dai 300 ai 500 metri quadrati. Lo hanno chiamato, non a caso, a deux pas, tradotto in italiano a due passi. Ogni negozio farà caso a sé, sia in termini di assortimento sia di politiche di prezzo. Questa è una vera rivoluzione perché, come molti sanno, la distribuzione è un'industria di fatto seriale. Si costruisce un negozio, lo si mette a punto e tutti gli altri saranno identici in futuro. In questo caso tutto cambia e velocemente. La popolazione invecchia, fa fatica a prendere l'auto e recarsi nei centri commerciali fuori dalla città, è sempre più disorientata dalle promozioni. Ecco il vero significato di a due passi. La faranno da padrone in questo negozio i freschi, ma anche il bio e i surgelati. E, novità della novità per Auchan, sarà sviluppata anche attraverso il franchising. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Mai Tendenza è stata più in linea con questa trasmissione, con questo mezzo. Oggi per il focus sui trend parliamo infatti di consumi on air. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Nell'era dell'immagine, del digitale e della parola scritta per eccellenza, torna protagonista la voce, il sonoro. Dai libri parlati alle nuove applicazioni per i social network, dalle guide audio per esploratori urbani ai navigatori con le indicazioni dei personaggi famosi, fino ai ciondoli e alle cartoline sonore. C'è insomma chi sulla voce e sui suoi utilizzi più innovativi è pronto a scommettere. Patrizia. Sì, quella della voce nel panorama new mediale e social è davvero una presenza degna di nota. Infatti il sonoro fa capolino nel mondo online, fatto, se ci pensiamo, di prevalentemente di soli testi scritti, perché che sia lo status, il tweet, il check-in di Foursquare o simili, infatti finora abbiamo digitato, abbiamo scritto. E invece nuove applicazioni e nuovi social network riportano il rumore e il suono della voce umana in primo piano. Stop typing, start shouting, basta digitare testi, cominciamo a parlare, cominciamo a gridare, è il payoff di shoutomatic.com, e sound is social ci viene ricordato anche da Audioboo, piattaforma mobile e web in cui gli user possono registrare, caricare e postare audio tweets, brevi messaggi vocali o storie, ma anche suoni qualsiasi, suonerie, strofe di canzoni o altro, e poi seguire gli aggiornamenti, gli updates vocali dei propri amici anche su altri social, su altre piattaforme. C'è anche Google Voice, la risposta di Google a Skype, che propone messaggi istantanei vocali con l'opzione della traduzione testuale. È in versione beta proprio in questo periodo Blavving, il microblogging in formato audio sviluppato dalla brasiliana P-Mobile, e funziona appunto come Twitter. In effetti in tutti questi casi i tweet, i 5T sono davvero tali, cioè sono appunto sonori. L'uso è molto semplice, si registrano messaggi di massimo 2 minuti, si caricano e si condividono. In tutte le presentazioni di questo nuovo social network, Fabio Della Rua, il presidente della società responsabile del progetto, ha detto: non è la stessa cosa, se ci pensiamo, raccontare un gol su Twitter, per fare un esempio, magari scrivendo gol con tutte le O che vogliamo, che essere allo stadio, magari in diretta, e cantare, urlare gol e poi caricare questo suono su Blavving. La voce pare sarà protagonista anche nel futuro mondo dei videogiochi, che già svincolato da fili, ora pensa di bypassare anche i controller e puntare su gesti delle sole mani e sulla voce. È uscito in Italia lo scorso novembre Kinect di Microsoft, appunto senza joystick. È un device che si collega alla console Xbox 360 e offre questa tecnologia rivoluzionaria con sensori di movimento senza raggi infrarossi e qualche comando vocale. E da segnalare voiceprintsart.com è il sito, una società che crea opere d'arte con un unico soggetto. Sono per definizione opere uniche perché sono la visualizzazione grafica delle onde sonore emesse e registrate in tracciato digitale. Che le voci digitali siano fastidiosamente innaturali lo sperimentiamo ogni volta che usiamo un navigatore. In testa alla classifica dei video virali stilata dal Guardian, Darth Vader, mitico personaggio di Star Wars, che registra la propria voce per il navigatore satellitare TomTom. È naturalmente un dietro le quinte fake, ma i TomTom Star Wars con Darth e altri 3 personaggi, il maestro Yoda, il robot D3BO e Han Solo con i grugniti del copilota Chewbacca, guiderà gli automobilisti di tutto il mondo con le tipiche frasi quali: inverti il senso di marcia, trovo insopportabile la tua mancanza di fede, prendi la terza strada a sinistra. E riscuotono sempre più successo anche in Italia, all'estero e boom ormai da tempo, gli audiolibri. Attualmente da noi sono disponibili circa 500 titoli, dati dell'AIDA, l'Associazione Editori Audiolibri, contro i 25.000 degli Stati Uniti o i 20.000 della Germania. Protagoniste del mercato, tutte con risultati in crescita, Il Narratore, Good Mood e Emons. Sentiamo, proprio edito da quest'ultima, un brano tratto dal mitico Bar Sport di Stefano Benni, letto da Davide Riondino. L'uomo primitivo non conosceva il bar. Quando la mattina si alzava nella sua caverna, egli avvertiva subito un forte desiderio di caffè. Ma il caffè non era ancora stato inventato e l'uomo primitivo aggrottava la fronte assumendo la caratteristica espressione scimmiesca. Gli scapoli la sera si trovavano in qualche grotta, si mettevano in semicerchio, si scambiavano botte di clava in testa secondo un preciso rituale. Era un divertimento molto rozzo e presto passò di moda. Allora gli uomini primitivi cominciarono a riunirsi in caverne e a farsi sui muri delle caricature che tra di loro chiamavano scherzosamente graffiti paleolitici. Ma questo primo tentativo di bar fu un fallimento. Non esistevano l'amo viola, il vistoso sgambetto, il secco rasoterra, il dribbling ubriacante e l'arbitraggio scandaloso. E la conversazione languiva in rutti e grugniti. Patrizia, una formula nata con l'editoria per l'infanzia, ma che ora, lo abbiamo appena sentito, sta facendo presa per tutti gli altri settori. Sì, per restare in tema adulti bambini, proseguiamo con altri esempi, i ciondoletti parlanti. Chissà se ai bambini questo oggetto piace davvero e se il target sono loro o se sono i genitori bisognosi di compensare assenze sempre più dilatate. Si chiamano Talkatoo, sono appunto ciondoletti parlanti, ma non sono un giocattolo divertente come possono essere le bambole parlanti o altri giochi con il sonoro. Dai ciondoletti esce infatti la voce registrata della mamma, del papà, di qualche nonno, insomma una voce familiare che dovrebbe fare compagnia o ricordare qualcosa o incoraggiare o salutare, eccetera, qualsiasi cosa, il bambino che se la porta al collo. C'è anche la versione spilla da zaino o fibbia da cintura per i ragazzini più grandi. Il ritorno della voce nel mondo online, nel digitale, può essere molto interessante anche nel contesto degli stili di mobilità e di vita urbani, con sempre più momenti di vita lavorativa on the go, in mobilità, da ottimizzare anche quando non abbiamo mani libere per digitare. I traduttori voce-testo sono per esempio un servizio per computer e cellulari che già da qualche anno si va evolvendo e diventa sempre più sofisticato. Jot Voicemail, per esempio, permette di ricevere messaggi vocali come email e sms e quindi consente di registrare un messaggio anche piuttosto articolato, poniamo per strada, che poi arriva al destinatario come testo. Ci sono anche applicazioni per iPhone gratuite e poi c'è D2U, Transcriber, sviluppato dall'azienda Dictate to Us per la trascrizione digitale. Gli utenti dettano al device, poniamo allo smartphone, quindi registrano sul proprio telefono un file audio che viene caricato sul sito di Dictate to Us e lì un team trascrive il testo e ce lo manda via mail come documento Word. Un parlato fino a 5 minuti ci torna come testo scritto entro un'ora. Il costo è una sterlina e mezzo al minuto. E ci sono i primi esperimenti anche di audio advertising. Le campagne stampa sonorizzate. Il quotidiano indiano The Times of India, lo scorso 20 settembre, nell'edizione di Mumbai, ha ospitato nell'ultima pagina, cioè la quarta di copertina, la campagna stampa di Volkswagen Vento, con un inserto pubblicitario vocale. Quindi appena disteso il quotidiano in assetto lettura, parte il parlato. Senza che si tocchi o si pigi nulla di particolare, si vede la pubblicità a cui la pillola sonora è associata, la voce ricompare ogni volta che il giornale viene ripiegato e ridisteso. Quindi una modalità molto innovativa per certi versi, ma anche con molti vincoli, come si è letto nelle conversazioni in rete postate da chi quel giorno ha preso l'aereo e ha aperto quel giornale insieme a decine di altri passeggeri più o meno negli stessi minuti, e pare che l'equipaggio fosse piuttosto innervosito. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su Consumi On Air e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Soundwalk è un collettivo internazionale di stanza nella Grande Mela che da qualche anno produce degli speciali audio tour in cui famose voci narranti guidano le persone alla scoperta dei percorsi, dei quartieri e soprattutto delle storie legate a questi luoghi. Scaricabili su smartphone o iPod o iPad via podcast, i tour trasformano il classico giro turistico in una passeggiata sonora in cui voci, effetti acustici e musica invitano a immergersi nelle abitudini e nei ritmi di chi in quelle strade ci è cresciuto e ce le racconta da una prospettiva privilegiata. I tour sono i più diversi, si può scegliere la passeggiata commemorativa Ground Zero commentata dallo scrittore Paul Auster, la visita al Bronx attraverso i vicoli in cui è nato il movimento hip hop accompagnati dalla voce degli Africa Bambata, o ancora una panoramica sui vezzi e personaggi di Bryant Park direttamente dalla voce dell'attore Matthew Broderick. Ecco Alessia, li sentiamo già in sottofondo, abbiamo preparato un montaggio di questi tour, ascoltiamolo insieme. Yeah, this is the stop right here. I'm Paul Auster, writer, New Yorker. This is a sonic memorial, a walking memorial. Let's begin walking. If you're facing the church, turn right and walk on Broadway towards Vesey. Keep the church on your left. E dato l'immediato successo, Soundwalk ha già all'attivo collaborazioni con diversi brand. Nel 2008 ha realizzato insieme a Louis Vuitton le guide di Pechino, Hong Kong e Shanghai, narrate dalle tre attrici cinesi più famose, ed è tuttora in corso la collaborazione con il marchio Puma, con cui sono state realizzate le guide per i runner di New York, Londra, Berlino e Parigi. Grazie Alessia. Patrizia, è una tendenza che promette sviluppi futuri? Ma vedremo se la futura protagonista, soprattutto della rete, dei social media, sarà davvero la voce. Sarebbe però un'interessante evoluzione. La voce potrebbe avere un ruolo importantissimo come parte del nostro corpo che si innesta e circola nella rete, aumentando da un lato la distinzione individuale di ognuno di noi e dall'altra la possibilità di intimità relazionale con gli altri. Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.